Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, ma potete ascoltarci anche tramite l'apposita app che potete scaricare tranquillamente dal nostro sito radiocittafujiko.it, con la quale app potete ascoltarci in tutto il mondo. Ante Antimeridian, mercoledì mattina, Città Fujiko Live Club, che inizia con una novità, come sempre. Naturalmente Città Fujiko Live Club si propone di farvi ascoltare musica dal vivo registrata nel corso degli anni e di quasi tutti i generi. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e oggi è una novità veramente super, nel senso quantitativo, più che qualitativo, onestamente. Ed è quello che a Bologna si chiama una baza, nel senso che sono 27 CD in un cofanetto a un prezzo che è veramente, veramente notevolissimo, al ribasso una volta tanto, se ricordo bene, è sui 120 euro, sono tantissimi, lo so, però per 27 CD la cosa si può fare una tantum, diciamo. E è anche vero che di questi 27 CD sono molti, molti brani ripetuti e alcuni anche, onestamente, con una qualità sonora non proprio da alta fedeltà, ma il tutto è stato registrato nel 1974. E svelo l'arcano, anche se molti di voi avranno già capito: la novità di oggi è un mega cofanetto, lo ripeto, 27 CD, che si chiama The 1974 Live Recordings, ed è ad opera di un personaggio che non presento, non dico, su cui non dico niente, dico solo il nome, si chiama Bob Dylan. Il buon Bob, insieme alla band, nel giugno del 1974 pubblicò un doppio album live che si chiama Before the Flood, registrato nel corso di quel tour, appunto, insieme alla band americo-canadese, direi più che altro tutta canadese, 4/5 almeno. E poi però quest'anno è stato pubblicato questo mega cofanetto che racchiude tutti i concerti di quella prima parte del tour. E come dicevo, naturalmente molti brani sono doppi, tripli, quadrupli, quintupli, anche ce ne sono tantissimi, però è un documento veramente interessante. E tutto iniziò a Chicago il 3 gennaio del 74 e terminò a Inglewood il 14 febbraio dello stesso anno, naturalmente, e questa fu solo la prima tranche, poi ce ne furono delle altre che però in questo caso non sono state considerate, altrimenti sarebbero state veramente un centinaio di CD uso ridere. E il set comprendeva anche all'interno una parte, una mezz'oretta, dedicata alla band, 20 minuti, mezz'oretta, che però qui non sono stati considerati, qui c'è solo la parte proprio di Bob Dylan. Ce ne andiamo ad ascoltare. L'imbarazzo della scelta è veramente notevole, e ho scelto un disco a caso, il numero 6, che è stato registrato a Maple Leaf Gardens di Toronto in Canada il 9 gennaio del 1974, e andiamo a iniziare con uno dei brani che io preferisco di Mr. Bob Dylan, un brano che è veramente notevolissimo. Non è niente, ma sto bene, mamma, sto solo sanguinando. Mm. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon, there's no sense in trying. Pointed threats they bluff with scorn, his suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn plays wasted words and proves to warn that he not busy being born is a busy dying. Temptation's page flies out the door, you follow, find yourself at war, watch waterfalls of pity roar, feel to moan but unlike before, you discover that should just be one more person crying. So don't fear if you hear that foreign sound to your ear. It's all right, Mom, I'm only sighing. Some won victory, some downfall. Private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl. Others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion words are like a bullet's bark, as the human gods aim for their mark, make everything from toy guns that spark to flesh-colored cries that glow in the dark. Easy to see without looking too far, not much is a really sacred. Preachers preach of evil fates, teachers teach that knowledge waits, can lead to $100 plates, goodness hides behind its gates. Well, even the president of the United States sometimes must have to stand naked. Though the rules of the road have been lodged, it's people's games that you got to dodge. And it's all right, Mom, I can make it. Advertising signs they con you into thinking you the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near, when a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear someone thinks they really found you. Question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy and show you not to quit. Keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. Though the masters make the rules, or the wise men and the fools, I got nothing more. Old lady judges watch people in pairs, limited in sex they dare, push fake morals, insult and stare. Money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda all is phony. Well, them that defend what they cannot see, with a killer's pride, security, it blows the minds most bitterly. For them that think death's honesty won't fall upon them naturally, life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuff, graveyards, false goals I scuff at pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off. Say, all right, I've had enough, what else can you show me? If my thought dreams could be seen, I'd really put my head in a guillotine. But it's all right, no, it's life and life only. Uno dei grandi classici di Bob Dylan si chiama It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Come vi dicevo, va tutto bene mamma, sto solo sanguinando, già il titolo è incredibile. E fa parte del sesto di 27 CD che compongono questo mega cofanetto che vi propongo oggi come novità, The 1974 Live Recordings. E come dicevo, anche in vista delle prossime festività potete anche magari, se siete amanti del genere di Bob Dylan, farvi un regalo. E naturalmente sono d'accordissimo sul fatto che oramai assodato e codificato che Bob Dylan ha scritto un sacco di bellissime canzoni, soprattutto dal punto di vista dei testi, ma personalmente ritengo anche che quasi tutte le sue canzoni siano al meglio in versione di altri, nel senso che le covers di brani Bob Dylan sono migliaia e quasi tutte sono superiori all'originale. Questo è un mio modestissimo personale parere, e in questa prima parte della trasmissione ce ne ascolteremo un po'. E iniziamo da una cosa un po' particolare. Bob Dylan fece nel 1966 un concerto alla Royal Albert Hall di Londra, che divenne famoso perché a un certo punto uno gli gridò Giuda, nel senso che aveva tradito i dettami del folk tradizionale per darsi all'elettrico, appunto, insieme alla band. E anni dopo una gentile signorina che si chiama Charlene Mary Chan Marshall, ma più conosciuta come Cat Power, ha riproposto integralmente quel concerto. L'album si chiama Sings Dylan, naturalmente, ed è appunto pedissequamente la riproposizione del concerto che ci fu in quel giorno. Addirittura c'è anche un personaggio, non ricordo più chi, ma è un musicista anche abbastanza affermato, che naturalmente è d'accordo con Cat Power, a un certo punto si alzò e gridò traditore, Giuda. E una cosa molto particolare, appunto, e ce ne andiamo ad ascoltare. Il tutto è stato registrato sempre naturalmente alla Royal Albert Hall il 5 di novembre del 2023. Se vi ricordate, vi ho proposto anche questo brano come novità qualche mese fa, e ormai quasi un anno, oserei dire. E ce ne andiamo ad ascoltare. Il brano che ho scelto per voi arriva da un disco di Bob Dylan che si chiama Another Side of Bob Dylan. Il brano invece si chiama I Don't Believe You. Lei si chiama Cat Power. Guess I'm glad gladly confess to anything I might have tried. If I was with her too long, or I've done something wrong, would she tell me what it is? A little red wagon, a little red back. I ain't no monkey, but I know what I like. I like the way you love me strong and slow. I'm taking you with me, honey, baby, when I go. Life is sad, life is a bust. All you can do is do what you must. You do what you must do and you do it well. I do it for you, honey, baby, can't you tell? E se Cat Power ha rifatto integralmente il concerto della Royal Albert Hall, il famoso, come dicevo prima, Royal Albert Hall Concert, e invece Mary Lee's Corvette, questa band che è capitanata appunto da Mary Lee, da Mary Lee Cortez, che arriva da New York, ha rifatto integralmente un album in studio, Blood on the Tracks, uno degli album migliori secondo me di Bob Dylan, e che viene fatto in questa occasione, era il la fine di settembre del 2011, una serie che si chiama Classic Album Night, che è stata ospitata, questa serie organizzata per meglio dire, in un locale di New York City che si chiama Harlem Grocery. L'album che ci siamo ascoltati naturalmente si chiama nello stesso modo, Blonde on the Tracks, lei invece si chiama Mary Lee Corvette. E in particolare il brano che ci siamo ascoltati si chiama Buckets of Rain, che molti di voi ricorderanno anche in versioni chilometriche da parte dei Grateful Dead. E arrivano dall'Australia, si chiamano Three Feeds, anche in Australia Bob Dylan ha colpito duro, e ce ne andiamo ad ascoltare in questo album che è stato registrato a Stoccolma per la radio svedese. Loro sono molto erano molto famosi perché la loro attività si è interrotta nel 1989, e appunto in una trasmissione radiofonica a Stoccolma hanno registrato questo brano di Bob Dylan. Era il 30 maggio 1989, il brano viene da John Wesley Harding, altro album storico di Bob Dylan, si chiama I Am Lonesome Hobo. Loro sono Three Feeds. Nothing out of that. I had 14 karat gold in my mouth. I had silk upon my back. I did not trust my brother. I carried him to blame. Let me chew my fatal doom to wander off in shame. Yes. be gone. But I would like to warn you all before I do pass on. Steer clear of petty jealousy. Live by no man's code. Save your judgment for yourself, lest you wind up on this road. Must a man walk down before they call him a man? And how many seas must a mariner sail before he can sleep in the sand? And how many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in. Must a man look up before he can see the sky? And how many years must one man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take until he knows that too many people have died? The end. Il mio primo grande amore musicale, quattro ragazzi che arrivavano da Londra e però si stabilirono in Italia nel 1963 con una serie di successi incredibili. Si chiamavano Rocks, alternavano composizioni proprie a traduzioni in italiano, diciamo così, di brani stranieri. E, erano, come dicevo, il mio primo grande amore musicale. Tutti i singoli mi facevo comprare perché non avevo ancora dei soldi miei, ma erano veramente grandissimi. Fra parentesi, hanno partecipato anche a qualche film, alcuni abbastanza dimenticabili, diciamo così, ma ne fecero uno anche con Totò, che appunto fece amicizia con questi Rocks. Il brano che ci siamo ascoltati naturalmente non ha bisogno di presentazioni, dirò solo che è tratto da The Freewheeling Bob Dylan, uno dei primissimi album di Robert Zimmerman. E tutto è stato registrato al Teatro Parioli di Roma nel corso del 1969. È uscito come doppio CD tantissimi anni dopo. È una cosa storica, oserei dire, una specie di archeologia musicale che fa bene al cuore. E torniamo a Stoccolma, ci siamo stati prima insieme ai Triffid, stavolta ci andiamo insieme a Willie DeVille, che ha pubblicato un doppio album che si chiama Acoustic Trio in Berlin, ma in realtà gli ultimi brani, mi sembra che siano otto tracce, sono state registrate invece a Stoccolma, in Svezia, il 10 marzo del 2002. È un doppio dischetto veramente notevole, come del resto quasi tutti quelli di Willie DeVille. È un trio acustico e naturalmente non potevano fare che un brano acustico per eccellenza. Chi di voi ha visto quel bellissimo film che si chiama Pat Garrett e Billy the Kid non ha sicuramente dimenticato la colonna sonora, che è fantastica, la prima colonna sonora che abbia mai scritto Bob Dylan, che contiene il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso, si chiama Billy the Kid. Lui è Willie DeVille, anzi in trio. Yeah. E se Mary Lee's Corvette, che ci siamo ascoltati in precedenza, avevano rifatto tutto l'album Blood on the Tracks, Old Crow Medicine Show invece hanno pensato a rifare pedissequamente l'album che si chiama Blonde on Blonde in occasione del 50° anniversario della sua pubblicazione. Infatti questo dischetto si chiama 50 Years of Blonde on Blonde da parte di questo gruppo di Nashville, che è una delle band più apprezzate nel panorama tradizionale americano e non solo. È una band che fino allo scorso anno non aveva un batterista, poi l'hanno aggiunto e vediamo quello che succederà. Un'autentica festa di banjo, chitarre, violini, tutto con parecchi dei componenti che cantano, anche se l'unico componente originale rimasto si chiama Catch Shaker e naturalmente lui suona la chitarra, il mandolino, il violino, tutto quello che volete. Hanno fatto 4 live albums, compreso un live at the Ryman che ci siamo ascoltati qualche settimana fa. Questo invece è stato registrato al CMA Theater della Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville, appunto, e il brano che ci siamo ascoltati si chiama I Want You. Ho detto all'inizio della trasmissione che sono migliaia le covers di Bob Dylan, di brani di Bob Dylan, e naturalmente qui ne abbiamo avuto un piccolo assaggio. Ho scelto solamente 3 lettere, non vi dico quali, ma potete tranquillamente immaginarle, e per cui appena possibile ci saranno altre trasmissioni, altre prima parte della trasmissione dedicate appunto a covers di Bob Dylan. A concludere ci penso un brano famosissimo che ha avuto anche questo decine e decine e decine di covers. Una, la più famosa, è quella degli U2, ma noi ci andiamo ad ascoltare quella che ne diede la Dave Matthews Band l'11 settembre del 1999 in quel della Continental Air Lines Arena di East Rutherford, New Jersey. Il brano si chiama All Along the Watchtower. None of them. Oh, bravissima, bravo. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. She once was a true love of mine. If you go when the snowflakes storm and the rivers freeze in summer rains, please see she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. Please see for me if her hair's hanging long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair is hanging long. That's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true lover of mine. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, 6 novembre 2024, abbiamo iniziato con la novità di oggi, il premio Nobel per la letteratura Robert Zimmerman, detto anche Bob Dylan, con questo mega cofanetto che comprende 27 CD, ma il prezzo è veramente molto molto interessante. The 1974 Live Recordings comprende anche questa registrazione effettuata al Maple Leaf Gardens di Toronto in Canada il 9 gennaio del 74. Il brano che ci siamo ascoltati, un altro grande classico di Bob Dylan, in questo caso da solo, senza la band, con la sua chitarra acustica, Girl from the North Country. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, che vede come al solito Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. Oggi ne abbiamo veramente tantissime, perché andremo ad interessare 7 decadi, perché il criterio di scelta, come sempre, è quello di un brano per ogni decade. Deep in poverty, you taught me how to give. Quindi pochissime chiacchiere e molta musica, andiamo subito con una registrazione effettuata il 6 novembre del 1966, dico 66, da parte di un grande persona, grande bluesman, si chiamava McGillie Morganfield, ma molti di voi lo ricordano come Muddy Waters. Lui è un personaggio che non ha bisogno di presentazione, è uno dei padri del blues di Chicago, del blues elettrico, ed è, ha influenzato un sacco di gente, fra cui anche Eric Clapton, che per la cronaca, una cronaca spicciola, fu il suo testimone al terzo matrimonio, appunto, di Muddy Waters. È morto nell'aprile del 1983 a 70 anni, ma questo album che ci andiamo ad ascoltare è uscito molto molto dopo, nel 2009, ed è, si chiama Authorized Bootleg, è una serie che è uscita con tutte le registrazioni tratte dall'archivio di un personaggio che si chiama Wolfangs, che era il tecnico del suono del Fillmore, che ha registrato tutti i concerti che c'erano, e molti vengono man mano pubblicati, il tutto al Fillmore, appunto, Auditorium di San Francisco, il 6 novembre del 1966. Il brano che ho scelto per voi si chiama 40 Days and 49 Muddy Waters. 40 days and 40 nights since my baby left the town. Just don't know. Forty days and 40 nights since I sat right down to cry. Serate al Fillmore Auditorium di San Francisco 4-5-6 novembre del 1966. Questo brano 40 Days and 40 Nights è tratto dall'ultima serata, quella del 6 novembre, ed è contenuta appunto in questo album che si chiama Authorized Bootleg, che fa parte della omonima serie. Lui era Muddy Waters. E Record Today è solamente una scusa per poi ascoltarci cose che non avrebbero alcun senso fra di loro, se non appunto la data di registrazione. E infatti andiamo ad ascoltarci adesso una cosa del 1975 che è completamente diversa da quello che ci siamo ascoltati fino adesso. Weather Report, sono stati fondati da Joseph Inulta, chitarrista eccelso, e Wayne Shorter, sassofonista altrettanto eccelso, in New York nel 1970. Sono sciolti poi nell'86, ma intanto hanno fatto concerti memorabili anche qua in Italia. Quello di Perugia fu veramente spettacolare. Questo album, che è uscito postumo nel 2011, si chiama Live in Berlin 1975, è stato registrato al Philharmonie. Scusate la pessima pronuncia, nella Berlino Est, siamo nel 1975, ed è la title track del loro quarto album, l'album che fu pubblicato l'anno prima, nel 1974. Quindi 6 novembre 1975, Weather Report, il brano si chiama Mysterious Traveler. Una delle mie band preferite in assoluto, 1975, in concerto a Berlino, questi erano i Weather Report, 6 novembre naturalmente, Mysterious Traveler, la title track del loro quarto album, pubblicato appunto l'anno prima, nel 1974. Gli anni 80 sono rappresentati da un gruppo che si è sciolto, ha vissuto praticamente negli anni 80. Venivano da Los Angeles e sono stati attivi dal 1982 al 1987, fine 1987, ma proprio quest'anno si sono riuniti, vedremo quello che succederà. L'annuncio è stato dato, ma ancora di concreto non c'è nulla. Li abbiamo visti appunto nel maggio dell'87 in apertura del concerto, dei due concerti degli U2 a Modena, e questo disco che ci andiamo, questo CD che ci andiamo ad ascoltare, si chiama BBC Radio 1 Live in Concert, meritevole serie che purtroppo non è più attiva, ma che ha pubblicato un sacco di cose dal vivo. I Long Justice sono dei pochi gruppi americani che sono stati inseriti in questa serie, che appunto arriva dalla BBC, quindi è britannica. È stato registrato al Town and Country Club di Londra il 6 novembre del 1986. Il brano che ho scelto per voi, praticamente forzatamente, perché il tempo è quello che è, si chiama A Fun Love, loro sono Long Justice. So clear on the stairs. Questo brano si chiama I Found Love, è stato scritto da Maria McKee, la cantante della band Lone Justice, insieme a Miami Stevie Van Zandt, che molti di voi ricorderanno nella E Street Band di Bruce Springsteen. Little Steven, detto anche così, produsse il secondo album della band, che si chiama Shelter, e scrisse anche alcune canzoni che poi insieme a quelle di Maria McKee sono andati a completare quell'album che ha portato molto successo a Lone Justice, che però si sono sciolti appena un po' dopo. Questo è stato registrato il 6 novembre del 1986, quindi il Country Club di Londra. Un quartetto che viene dalla Gran Bretagna, è stato attivo dal 1990 al 2000, quindi una decina d'anni. Si chiamavano Catherine Wheel, la Vergine di Ferro sarebbe quel strumento di tortura che molti di voi conosceranno, spero per sentito dire, non per averla usata. 5 album in studio hanno fatto e diversi extended plays e singoli con canzoni dal vivo. Questa è una di quelle, è un CD single che ha come brano di punta un pezzo che si chiama Balloon, e 2 brani a seguire che sono stati registrati al Moles di Bath, splendida cittadina nel sud dell'Inghilterra, il 6 novembre del 1991. Il brano che ho scelto per voi si chiama Let Me Down Again, loro invece si chiamano Catherine Wheel. Yeah. Vi ho già parlato diverse volte di questa serie che uscì, una serie che si chiama Jazz Italiano Live, che uscì per 3 anni, vale a dire nel 2006, 2009 e 2016, allegato a Repubblica o all'Espresso a seconda dei casi. E, come dice il nome, ci sono tutte registrazioni effettuate dal vivo da parte di musicisti italiani e secondo me è un'azione molto benemerita, almeno nel mio caso, perché mi ha fatto conoscere musicisti che altrimenti non avrei conosciuto, non avrei forse nemmeno apprezzato, tipo questo Stefano Di Battista, che è un sassofonista di Roma in attività dal 1992, ha fatto un sacco di album come titolare, ma ancora di più, direi il triplo, come collaboratore di tanti musicisti, compreso jazzisti stranieri, americani e europei. E il brano che ci siamo ascoltati è stato registrato alla Casa del Jazz di Roma il 6 novembre del 2009, è il numero 7 della serie Jazz Italiano Live 2009 appunto, e il brano che vi ho fatto ascoltare sono tutti brani con nome di donna, il brano in particolare si chiama Valentina. Ho citato prima Little Steven, Miami Stevie Van Zandt per i vecchi come chi vi sta parlando, e vecchi fans di Bruce Springsteen e della E Street Band, del quale lui ha fatto parte con un'interruzione di qualche anno. E lui in realtà si chiama Stefano Lento, è nato dal padre italiano Lento appunto, i suoi nonni erano il nonno calabrese e la nonna invece veniva da Napoli. Lui comunque è nato nel Massachusetts, poi si è spostato quando sua madre ha sposato Van Zandt dopo aver divorziato da Lento. Bella storia, no, sto andando per le lunghe, ma smetto subito per dirvi che la sua carriera è andata avanti anche oltre che come musicista, come attore. Tutti voi avrete visto, spero, Sopranos, se non addirittura Lily Hammer, e anche come radio DJ se la cava discretamente, e da qualche anno ha creato anche una propria casa discografica che si preoccupa principalmente di bands che hanno un suono molto 60s. Ha fatto 3 album live, questo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Summer of Sorcery Live at the Beacon Theater, registrato nell'omonimo teatro di New York City il 6 novembre del 2019. Il brano che ho scelto si chiama Communion, ho dimenticato di dire che nel caso specifico è insieme ai Disciples of Soul. 6 novembre 2019, Beacon Theater di New York City, Little Steven and Disciples of Soul in concerto, immortalato in questo album che si chiama Summer of Sorcery Live at the Beacon Theater. È il brano che ci siamo ascoltati, Communion, da parte di questa mega band, 15-16 elementi sul palco, con veramente delle cose bellissime, comprese le tre coriste, non perché, anzi, erano molto avvenenti, ma facevano dei movimenti a volte inconsulti che non c'entravano niente con la musica. Comunque questo è un altro discorso. Andiamo a concludere questa Record Today di oggi e anche Città Fujiko Live Club con l'ultima registrazione effettuata nel 2020. Infatti questo album si chiama Auckland New Zealand 2020. E Auckland naturalmente è la capitale dell'isola di Smeraldo, credo. No, quella deve essere l'Irlanda, non mi ricordo. Comunque c'entra qualcosa col verde, anche la Nuova Zelanda. Si chiamano Best, è un quartetto che è partito nel 2014 e sta avendo un buon successo in patria, ma anche nel resto del mondo, a parte forse l'Italia. La cosa curiosa è che il loro primo album è stato finanziato dal governo, è una cosa che in Italia non credo capiterebbe mai. Già col cinema stanno facendo dei grossi passi indietro, ma è una cosa veramente meritevole, come se ad esempio il primo album dei Modern City Ramblers l'avesse supportato il Ministero della Cultura italiano. Impossibile. Andiamo avanti. Tutti e quattro i membri, sono tre maschi e una femmina, cantano e fanno questo pop indie che va per la maggiore in certe parti del mondo. Hanno fatto un album live che è quello che vi vado a proporre, è stato registrato alla Town Hall proprio di Auckland nel New Zealand il 6 novembre dell'anno 2000. Il pezzo si chiama Happy Unhappy, ma prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica registrata dal vivo di ogni epoca e di quasi tutti i generi. Vi ringrazio per l'ascolto, naturalmente vi do appuntamento mercoledì prossimo, stesse modalità d'uso, 103.1 MHz oppure l'apposita app che potete scaricare dal sito. Vi lascio in compagnia dei Beth con il loro successo, fra virgolette naturalmente, che si chiama Happy Unhappy. Ciao a tutti da Nevio.